Buon compleanno, Chiara. Ecco. Questo è il primo elemento di fondamentale importanza per la nostra trasmissione. Però oggi parliamo di riscaldamento globale, insomma è un oggetto, un iperoggetto complicato. Quindi comincio a raccontare qualcosa per avvicinarci piano piano, come dall'alto, no? E partiamo da 11.000-12.000 anni fa, quando all'inizio dell'Olocene, no? Alla fine dell'ultimo picco glaciale, la specie Homo sapiens ha sviluppato progressivamente una capacità, la capacità di addomesticare le specie vegetali, un processo articolato in realtà che ha condotto alla nascita dell'agricoltura circa in contemporanea in varie parti del mondo, che ne so, la mezzaluna fertile, l'estremo oriente, il Messico centrale, tanto per citare le principali, e a partire dalle quali si è irradiata la prima rivoluzione agricola neolitica, una grande rivoluzione culturale, no? Citando parecchi anni prima, no? Intorno a 1.500.000 anni fa, l'avevamo già detto l'anno scorso, alcuni esemplari di Homo erectus, quindi genere come il nostro ma specie erectus, avrebbero fatto fare al genere Homo un salto pazzesco verso il controllo del fuoco e verso la capacità di controllare l'energia. In contemporanea sarebbe, secondo alcuni studi, si sarebbe sviluppata la capacità dell'uomo di consumare carne cotta, una strategia di alimentazione che si è dimostrata recentemente molto adattativa e che avrebbe determinato quindi un aspetto culturale che avrebbe determinato un avanzamento fisico del genere Homo. In effetti subito dopo si assiste ad una maggiore dimensione del corpo, della scatola cranica, della capacità di percorrere grandi spazi, in sostanza un maggiore capacità di adattamento. Quindi questa che cos'è, cari compagni e cari compagni all'ascolto, fratelli e sorelle? La cultura, cari ragazzi, è la cultura. La cultura che può essere definita come l'accumulo di conoscenze e innovazioni derivante dalla somma di tutti i contributi individuali che si trasmettono attraverso le generazioni e vengono diffusi all'intero corpo sociale, all'intero gruppo sociale, in questo caso dell'uomo. Quindi la caratteristica dell'Homo sapiens alla fine è quella, o comunque del genere Homo con le sue diverse specie fino a noi, è di una capacità molto estremizzata di modificare l'ambiente in cui vive, l'ambiente di esistenza, per adattarlo alle proprie esigenze, invece di sviluppare soltanto strategie adattative all'ambiente. L'uomo riesce progressivamente sempre di più a modificare l'ambiente in cui vive, fino ad allargare, ad estendere la sua nicchia ecologica all'intero pianeta e, visto come quello che abbiamo detto l'anno scorso, potenzialmente all'intero universo. Il dibattito quindi c'è, da una parte l'evoluzione biologica, da una parte l'evoluzione culturale, che continuamente interferiscono e sia pur avendo tempi e meccanismi diversi è oggetto del dibattito attuale tra antropologi e evoluzionisti post-darwinisti, cioè attuali, l'aspetto di quanto una influenza l'altra. Ci stanno esempi tipici tipo la tolleranza al lattosio negli adulti umani, che è molto sviluppata in Europa ed è la risposta biologica ad una pressione culturale dovuta al fatto che in Europa si era sviluppato l'allevamento degli animali da latte e l'alimentazione di derivati del latte, che invece nelle popolazioni che tradizionalmente non hanno che non hanno sviluppato questa capacità intorno a 9.000-8.000 anni fa, non si è sviluppata. Quindi la popolazione di origine europea ancora ha una caratteristica fortemente caratterizzante nella tolleranza in età adulta al lattosio, mentre invece, che si chiama persistenza di lattasi, mentre invece gli stessi Homo sapiens dell'estremo oriente invece le percentuali sono ribaltate, lì la tolleranza al lattosio in età adulta appare con percentuali bassissime. Insomma, comunque non è questo, anche per l'alcol si possono fare discorsi analoghi. Questo solo per dire che evoluzione biologica ed evoluzione culturale interagiscono in qualche modo che non è neanche del tutto chiaro. Torniamo al fatto che l'uomo, che Homo e Homo sapiens, nel frattempo ha progressivamente negli ultimi secoli ampliato, no? Enormemente la sua capacità di agire sul proprio ambiente di vita per modificarlo e renderlo ospitale. Questa capacità negli ultimi secoli, negli ultimi millenni, è diventata evidentissima nella storia della trasformazione da parte dell'uomo del pianeta in cui vive. Ci sono però degli aspetti recenti che assumono una dimensione ancora più grande di quella che abbiamo detto. In particolare l'invenzione della macchina a vapore intorno alla seconda metà del Settecento e il percorso che ha condotto dalla prima alla seconda rivoluzione industriale, ne abbiamo parlato anche di questo l'anno scorso, l'espansione del capitalismo industriale e il passaggio ad esempio progressivo da un'economia basata soprattutto sulla fonte energetica da legno a una fonte energetica di carbone, ha cominciato a far rivelare l'umanità come una forza geofisica, secondo alcuni, in grado di trasformare, di avere effetti sull'intero pianeta. In effetti gli scarti dell'industria, già dell'industria della prima rivoluzione industriale, le polveri, la fuliggine, no? Derivante dall'utilizzo del carbone, si è espansa su tutto il pianeta, e quindi capita, è evidente, nei ghiacci artici di trovare residui dell'alimentazione industriale a carbone e così via. Successivamente dal 1945 l'entrata nell'era nucleare, l'inizio delle esplosioni nucleari in atmosfera, tanto per dire ancora l'uomo come forza geofisica, carina questa definizione da geologo interessante che ho trovato, è la presenza su tutto il pianeta continua di uno strato sottilissimo, sottile più spesso così, di terreno inquinato o comunque nel quale si trovano radionuclidi d'origine artificiale. Quindi l'uomo è diventato in grado, con delle azioni locali, di trasformare l'intero pianeta e lasciarne residuo. Ancora si potrebbe dire la mineralizzazione, se vogliamo, a me piace questa idea della mineralizzazione recente a cemento armato in espansione totale, la sostituzione quasi globale delle costruzioni in terra, è un fenomeno che sta avvenendo, delle costruzioni in terra tradizionalmente, anche qui, anche a Roma, erano tutte costruzioni in terra, in materiali naturali. Il cemento armato condurrà alla formazione post apocalittica di uno strato a cemento armato che chissà chi recepirà. La stessa cosa sono l'acidificazione degli oceani, le gigantesche isole di plastica che stanno nel Pacifico. L'uomo non agisce più, non interagisce più soltanto con l'ambiente localizzato, ma interagisce come forza di trasformazione dell'intero pianeta. L'inizio del periodo nucleare, tra l'altro, più o meno il 45, coincide con la grande accelerazione pure della curva di emissione della CO2. È successo tutto dopo la seconda guerra mondiale, la forma inquietante dell'incremento di CO2 in atmosfera, dell'incremento di concentrazione di CO2 in atmosfera, che non ha precedenti nella storia del pianeta in assoluto, è avvenuta a partire dal 1945. La percezione di questo salto di scala esponenziale dell'Homo sapiens sull'ambiente rappresenta, il fatto che questo possa rappresentare un problema nella percezione collettiva, si fa strada con lentezza. A parte qualche movimento minoritario ecologista, si potrebbe dire che nel 1972 col rapporto sui limiti dello sviluppo del Club di Roma si è sviluppata una percezione, il primo tassello della percezione collettiva globale, a parte appunto le esperienze anche molto avanzate di, diciamo, ambientalismo militante di cui era costellato il mondo, la prima percezione paragovernativa di questo effetto dell'evoluzione biologica dell'uomo sul mondo. Il problema della percezione, che è solo apparentemente secondario. Il riscaldamento globale è qualcosa di complesso da percepire, è di fatto una percezione strumentale e mediata dalla scienza, perché tu non percepisci come persona il riscaldamento globale, fai esperienza degli eventi connessi al riscaldamento globale, eventi meteorologici estremi, le piogge, il fatto che ti si brucia il collo. L'effetto locale del riscaldamento globale non è un'immediata evidenza del riscaldamento globale, è anche il nesso causale tra attività umane e il riscaldamento globale è accettata perché finalmente la comunità scientifica si è convinta in larghissima maggioranza della sua validità strumentale, scientifica e di verità statistica. È stato un processo che ha richiesto tanto tempo, adesso la comunità scientifica è coesa. Sugli scenari futuri e sugli effetti del riscaldamento globale c'è addirittura un ampissimo terreno di discussione e addirittura di scontro. È vero che è in corso una enorme crisi della biodiversità con il crollo, secondo il WWF, del 60% delle specie viventi correlato all'aumento di CO2. È vero altresì che, secondo uno studio pubblicato st'estate, il livello di carbonio disciolto e il livello di acidificazione degli oceani è simile a quello che si è avvenuto 5 volte in 5 su 6 estinzioni, in 4 su 5 estinzioni di massa delle precedenti, quindi poco prima dell'estinzione permiana, dove si è estinto l'80%, il 90% della biomassa mondiale. Il livello di carbonio di CO2 disciolto, di carbonio disciolto negli oceani, aveva determinato una acidificazione tale che ha comportato l'estinzione di massa, e che è molto simile al livello attuale. Sono scenari pazzeschi, no? Apocalittici. Però noi che possiamo fare? Cioè, la trasmissione oggi, attraverso il comandante Jacopo, Chiara e la nostra ospite graditissima, che poi si introdurremo telefonica, è proprio questo. Che succede? Ma che possiamo fare? Stiamo parlando di cose enormi. Che facciamo? che facciamo qui noi comunità militante, tra l'altro, cari compagni e compagni? E allora questa era l'introduzione. Libera Scienza e Libero Stato ci parlano di cambiamenti climatici nella nuova impostazione Scienza e Potere. Qualche minuto di musica e poi di nuovo in voce con una gradita ospite. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Con i Deep Purple, When a Blind Man Cries, ritorniamo in voce, Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Parliamo di cambiamenti climatici e quindi passo la parola a Jacopo. Salve, buonasera a tutti, grazie Chiara e grazie Lorenzo sempre per le tue chiare introduzioni, diciamo anche difficili, ma sono, insomma, diciamo che racchiudono tante problematiche, tanti interrogativi. Insomma, noi volevamo quest'estate abbiamo pensato a che trasmissioni fare. Faccio un breve riassunto. Ovviamente le questioni contingenti a livello attuale ci hanno portato ovviamente a fare questa trasmissione sul clima. Io in realtà devo dire la verità, non è che mi ero interessato, ecco, da un punto di vista scientifico in maniera molto approfondita su questo tema, però preparando questa puntata ho iniziato a documentarmi e mi sono accorto di quanto veramente è complicata la situazione, di quanto sono complicati, se vogliamo, i rimedi che si possono attuare per far fronte a questo riscaldamento globale. un momento, vedi qua ci sono dei problemi. Ci... E allora forse qualche problema e ritorniamo tra qualche secondo. Forse non ci sei, non so. Vai, vai. Da lui. Vieni qua. Vai, che continua qua. No, senti il microfono. Senti. Ah, ecco, scusate, oggi proprio è andata un po' così, avevamo problemi al microfono. Insomma, dicevo, e quindi ci siamo accorti della complessità dell'argomento. Io studiando ho visto che il clima è una cosa assolutamente complicata da studiare, anzi, se vogliamo, una delle discipline più difficili nelle scienze naturali. Ora, Lorenzo diceva che fare, dobbiamo fare qualcosa. Innanzitutto ovviamente c'è da dire che è stato fatto a livello mondiale, stanno facendo i vari movimenti che si stanno sviluppando adesso sono qualcosa di tangibile, di concreto, che fa forza. Ma da un punto di vista scientifico la comunità mondiale si è operata molto sin dal 1988, quando hanno fondato l'IPCC, che è un gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Ovviamente questo gruppo è un gruppo che studia i cambiamenti climatici in maniera rigorosa, scientifica. Questi IPCC si divide in, se non sbaglio, in tre gruppi di lavoro. Un gruppo di lavoro si occupa delle basi scientifiche dei cambiamenti climatici, un secondo gruppo si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali umani e delle opzioni di adattamento e della loro vulnerabilità, e un terzo gruppo si occupa di come questi cambiamenti, della mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I documenti IPCC sono utilissimi, danno delle linee guida a livello mondiale a tutti i governi su come comportarsi per fronteggiare l'aumento climatico. Di rapporti dal 1990 ce ne sono stati 5, se non erro, il sesto si avrà nel 2022. Queste cose ovviamente, ribadisco, sono abbastanza sconcertanti, questi rapporti, se uno li legge. Innanzitutto perché io non sapevo, ma l'ultimo rapporto dell'IPCC dice che un riscaldamento globale si avrà comunque, si avrà di un grado e mezzo se l'umanità riuscisse a limitare le emissioni di CO2 a zero entro il 2050 e a ridurre del 40% in questi dal 2030 al 2040, penso. Ora, è la cosa che mi ha colpito di più in tutti questi rapporti, profilando ovviamente questo rapporto profila degli scenari assolutamente di cataclisma, di veramente degli scenari brutti, apocalittici, ma questi scenari sono inevitabili ormai, ecco, in un certo senso sono inevitabili. L'unica cosa che possiamo fare con questa riduzione della CO2 fino a livelli zero nel 2050 è quello di cercare di limitare l'alzamento della temperatura fino a un massimo di 1,5, che già è tantissimo e porterà ovviamente dei disfacimenti enormi a livello mondiale. Se questo non dovesse avvenire sarà ancora peggio, perché la temperatura andrà più alta, i livelli degli oceani si alzeranno, eccetera eccetera. Quello che ci ha lasciato un po', vero Lorenzo, sconcertati è il fatto di questo rapporto, quando alla fine prova a dare delle soluzioni. Ora, queste soluzioni sono, diciamo, se il comunismo era un'utopia, queste, diciamo, che vanno oltre, ma comunque ne parliamo di tutti questi aspetti. Adesso ne parliamo in maniera più scientifica, in maniera più puntuale, introducendo la nostra ospite di stasera, che è la ricercatrice Elisa Palazzi. Ricercatrice Elisa dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR e docente di Fisica del Clima presso l'Università degli Studi di Torino. Buonasera Elisa. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Senti, allora, la prima cosa che ti volevamo chiedere, in base a quello che abbiamo detto, in base a questo IPCC, ora, che cos'è veramente questo cambiamento climatico? Cosa vuol dire? L'IPCC dice delle cose assolutamente nefaste, sono vere? Fino a che punto, insomma, la scienza in questo caso dà la sua opinione, diciamo, oggettiva? Beh, totalmente, direi, nel senso che l'IPCC è, come giustamente dicevi, un comitato di scienziati coordinati dall'ONU che si occupano di studiare le materie affini al clima e ai cambiamenti climatici, che come sai, come avete già in parte sottolineato, comprendono moltissime angolazioni, moltissime sfaccettature. Il cambiamento climatico è qualcosa che ormai va oltre il semplice concetto di surriscaldamento globale, no? Quindi non è solo il fatto che le temperature in media sulla Terra sono aumentate con picchi più alti della media in alcune regioni specifiche, magari dopo ci torniamo, ma sono anche tutte le conseguenze ormai che questo innalzamento di temperatura ha provocato, che sono diventate se stesse come degli indicatori di questo surriscaldamento. Cioè, se noi ci guardiamo intorno, i segni che la natura ci mostra dell'innalzamento di temperatura sono molto chiari, sono inequivocabili. L'innalzamento dei livelli dei mari, la fusione dei ghiacciai, gli eventi estremi, sono cose che ci riguardano molto da vicino e con le quali facciamo i conti, ce ne stiamo rendendo conto, secondo me, più di quanto forse si è detto prima nell'introduzione. Non sono una cosa lontana, sono qualcosa che invece è estremamente tangibile e che si sta verificando un po' sotto i nostri occhi. Insomma, io non avrei mai immaginato di poter vedere la ritirata di un ghiacciaio magari nell'arco della mia vita, no? Perché siamo portati a pensare che quegli oggetti là, i ghiacciai, siano cose davvero eterne in qualche modo, no? Perenni. E invece diciamo che in qualche decina di anni il ritiro, per esempio, dei ghiacciai è qualcosa di estremamente chiaro e visibile a tutti. Certo, io ho una domanda da farti. Diciamo, ormai è inevitabile, ecco, questo è sicuro. Alcuni cambiamenti si stanno verificando, altri sono lì dietro l'angolo, nel senso che, come dicevate prima giustamente, anche se noi oggi smettessimo di emettere i gas effetto serra di origine antropica, smettessimo oggi, domani la temperatura continuerebbe un po' ad aumentare, perché il sistema climatico è fatto così, ha una sua inerzia, è molto complesso, quindi assisteremmo comunque a un aumento della temperatura, magari limitato, ma continuerebbe ad aumentare. Però se smettessimo di emettere oggi, poi questo aumento si stabilizzerebbe, ed è questo quello a cui dobbiamo puntare assolutamente. Quindi le scelte che facciamo oggi, adesso, sono fondamentali per il nostro futuro. Possiamo dire che questo è emerso in uno degli ultimi rapporti cosiddetti speciali dell'IPCC, che probabilmente non siamo segnati da quello che abbiamo emesso prima, però adesso le scelte che facciamo sono determinanti per il futuro, ad esempio per il futuro dell'oceano, per il futuro delle riserve idriche. Anche questa è una cosa che è emersa proprio nel rapporto uscito, il più recente di tutti, poche settimane fa, il rapporto speciale sugli oceani e la criosfera. Perché tu prima hai citato il rapporto che uscirà tra qualche anno, che è il sesto rapporto dell'IPCC, il precedente, il quinto, è uscito nel 2013, ma nel mezzo ci sono stati tre rapporti speciali molto importanti. Uno che ha delineato la differenza che farebbe ad arrivare a 1,5 gradi in più di temperatura a fine secolo rispetto a 2 gradi, un mezzo grado che si è visto fa veramente la differenza. Un altro rapporto speciale sull'uso del suolo, diciamo, e l'ultimo sugli oceani e la criosfera. Elisa, intervengo sì. Io non dicevo io, dicevo esattamente il contrario prima, che il riscaldamento globale è lontano, e anzi è molto vicino ed è da tutte le parti. Il problema è che chi ne percepisce... non ci senti più? Senti Elisa? Non mi senti? Anzi è molto vicino ed è da tutte le parti. Il problema è che chi ne percepisce... Mi senti? Non ci senti più? Elisa? Pronto, adesso un po' vi sento. Sì. Perché siamo arrivati con ritardo. Senti. Molto, sei riuscito, devi abbassarmi, non so perché siamo arrivati tardissimo. Mi è tornata la mia voce dopo, adesso va bene? Senti? Elisa? Mi è tornata la mia voce dopo, adesso va bene? Mi sentite? Mi senti, Elisa? Senti? Mi è tornata la mia voce dopo, adesso va bene? No. Aspetta. Aspetta, mettiamo un attimo di musica e ti richiamiamo, mi sa che è meglio. Allora, riproviamo. Ci sei, Elisa? Ci sono, ma vi sento male, male, male. Male? Ma forse... ecco, adesso un po' meglio. Forse dove stai tu un attimo? Adesso come va? Bene. Bene, benissimo. Dicevo, allora ricominciamo, riproviamo. Dicevo, il mio dire della difficoltà di percepire il riscaldamento globale non era un'affermazione della sua distanza, anzi l'opposto. Faceva riferimento un po' al fatto che molti dicono che gli elementi che lo compongono non sono legati ad un fenomeno globale, per quello il problema lì. Rispetto invece a quello che stavi dicendo, no? Ci puoi dire un po' meglio questa cosa del, così lo spieghiamo meglio alla radio, questa cosa del contenere un grado e mezzo o due gradi, da quello che si evince sul rapporto speciale, quello a cui facevamo riferimento noi, è che l'effetto intanto se ci puoi dire per quale motivo la comunità scientifica è così convinta, così mettiamo a posto pure il negazionismo direttamente opponendogli la risposta, per quale motivo la comunità scientifica è così convinta che questo incremento della temperatura media globale al suolo, non quella atmosferica e tutte le altre evidenze strumentali del riscaldamento globale sia legato all'incremento della CO2, a parte quello che ho detto nell'introduzione, che la CO2 è aumentata, cioè la concentrazione dell'anidride carbonica in atmosfera di origine antropogenica è aumentato in modo massiccio a partire dall'inizio della rivoluzione industriale, a partire dal 1945, ma la correlazione è così stretta, per quale motivo i climatologi del mondo, la comunità scientifica, anche noi ci siamo convinti di questa inevitabile correlazione? Pronto? Sì. Elisa? Hai sentito niente? Elisa? Mannaggia, niente, non si riesce a sentire. Ecco, eccomi. Hai sentito? Ora vi sento. Hai sentito quello che ho detto? Mi sentite voi? Ho sentito, penso, i tre quarti della domanda. La domanda, la parte la ripeto, la domanda finale è: per quale motivo siamo tutti così convinti che l'incremento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica è alla base del riscaldamento globale che attualmente stiamo vivendo e che si manifesta con le cose che dicevi tu? Sì, allora, prima di tutto, per gran parte della domanda l'ho sentita, quindi siamo uno assolutamente convinti che la temperatura sia in crescita e che la Terra si sia surriscaldata, perché anche su questo talvolta viene di nuovo posto un dubbio che è inesistente, no? Perché i dati, le evidenze scientifiche ci dicono quello, quindi in quel caso si tratta proprio di negare qualche cosa che è dentro i dati. Sì, sì, ma come dicevi, lasciamo riperdere gli scienziati asserviti e i negazionisti, parliamo degli aspetti assoluti. Sulla correlazione con l'anidride carbonica e gli altri gas a effetto serra pure c'è poco dubbio. Ugualmente, anche qua abbiamo tantissime evidenze. A parte il fatto che, voglio dire, la correlazione tra i gas a effetto serra e l'aumento di temperatura è qualcosa che risale a tantissimo tempo fa, cioè già alla fine del 1800 si sapeva, Arrhenius addirittura fu, insomma, che c'era un legame tra questi, tra CO2 e la temperatura, ma ancora prima, Tyndall, Fourier, erano cose note. Poi queste cose, grazie anche all'evoluzione degli studi, sono state sempre di più corroborate. Attualmente non esiste nessun'altra fondamentalmente variabile naturale in grado di spiegare in maniera plausibile l'aumento di temperatura che negli ultimi 100-150 anni si è verificato. Se noi prendiamo l'intensità solare, per esempio, vediamo che proprio nel momento in cui la temperatura è aumentata di più, quella ha avuto un lieve calo di intensità solare, quindi non può essere in nessun modo una forzante. Anche altre forzanti non sono in grado di spiegare quantitativamente l'aumento di temperatura, solo mettendo insieme quelle naturali e quelle antropiche date dalle emissioni di gas serra, allora noi siamo in grado di capire che ciò che abbiamo osservato in termini di temperatura è spiegabile. Si tratta proprio di mettere insieme le evidenze che si hanno da più parti e il quadro è fatto. Benissimo, visto i tempi lascerei perdere i negazionisti, non li affrontiamo, come dicevamo per l'altro giorno, affrontiamoli il meno possibile. In realtà molti di quelli, tanto per aggiungere colore, molti di quei pochi scienziati cosiddetti qui intorno a San Lorenzo che negano, che si sono schierati tantissimo dalla parte del negazionismo assoluto e che hanno firmato quell'appello per impedire le azioni politiche per la riduzione della CO2, sono gli stessi che poi in realtà propugnano il nucleare, quindi utilizzano l'aumento della CO2 per tirar fuori ancora l'energia nucleare, oppure organizzano convegni per lo stoccaggio geologico della CO2. Quindi diciamo che hanno perlomeno un atteggiamento ondivago, secondo noi, secondo me, Jacopo, sono chiaramente asserviti a qualche idea di potere che non chiariamo. Quindi sgombrato il campo, visto che ne parliamo, a supporto di quello, se posso aggiungere, dimmi, certo. Quello che il 97% degli scienziati dice è supportato da una grandissima quantità di lavori scientifici e di pubblicazioni scientifiche. Le altre teorie invece sono congetture, in qualche modo facilmente smentibili, perché non hanno una controparte di evidenza pari a quella del 97% della comunità scientifica internazionale che si occupa di studiare da una vita i cambiamenti climatici. Questo secondo me già basta. Uno si deve andare a vedere le pubblicazioni e i lavori scientifici e allora possiamo parlarne e ragionare alla pari, se no, no. Elisa, mi senti? Sì. Ti volevo fare una domanda. Io so che, visto che ci conosciamo da tantissimi anni, tu, insomma, possiamo dire da sempre, insomma, da quando hai finito il dottorato, gli studi, insomma, hai studiato il clima, hai fatto fisica dell'atmosfera e ti sei adoperata tantissimo e continui a farlo nella divulgazione di queste tematiche, giusto? Ovviamente avrai ricevuto le più disparate domande su questo, ovviamente andando in giro per l'Italia, dalle scuole agli incontri pubblici, eccetera. Ora, da profano, da uno che non studia la complessità del clima, eccetera, eccetera, ora, leggendo l'IPCC, io ti faccio una domanda: ma a fronte di tutte le evidenze sperimentali su cui ormai non ci piove, ovviamente abbiamo detto che chi lo fa, chi nega, secondo noi sta in malafede, ha qualche interesse diverso, eccetera, eccetera, oppure non è scientificamente corretto, però il risultato è che comunque io vorrei tanto che questo fosse falso, cioè questo è il punto, perché leggendolo io mi si è accapponata la pelle quando ho visto che le emissioni di CO2 devono essere nulle se non negative entro il 2050. Ora, secondo te questo come può essere possibile, cioè quali sono le strade da percorrere, perché se uno legge l'IPCC anche lì secondo me è una visione anche abbastanza, diciamo, troppo politicamente corretta, perché ci sono degli aspetti sui rimedi che sono la lotta alla povertà, che sono l'uguaglianza, la redistribuzione, il far fronte a quello che i cambiamenti climatici porteranno in seno, cioè quindi forti migrazioni, dissesti idrogeologici, siccità, e quindi tutti questi aspetti in cui anche la pescosità dei mari non ci sarà più, eccetera eccetera. Ma come si fa a far fronte? Voi, detto questo, ok che dal punto di vista scientifico è quello, però la domanda viene da sé, insomma, quindi avrai avuto tante domande da questo punto di vista. Che idea vi siete fatti? Insomma, tu come rispondi in generale? O pensi tu proprio come cittadina? Come fare noi? Come? Noi come genere umano, noi come istituzione, noi come politica, come anche nella sfera personale. Cioè, perché io lo vorrei tanto, ma pensare che nel 2050 nessuno più produce CO2, a me mi sembra, non dico, beh, ambizioso, un eufemismo. Intanto bisogna crederci, rimboccarsi le maniche credendoci, perché sennò è chiaro che se partiamo scoraggiati, no, non andiamo da nessuna parte. Poi è un percorso che si fa tutti insieme, che ha principalmente due strade che non sono percorribili se non insieme, contemporaneamente intendo, cioè la mitigazione, quella che, a cui ti riferivi tu soprattutto, e poi c'è l'adattamento. La mitigazione vuol dire agire sulle cause, no? Che hanno determinato questo riscaldamento e tutti i cambiamenti connessi. Quindi in primis ridurre le emissioni di gas serra e aerosol atmosferici. Non è solo ridurre le emissioni, il grosso è sicuramente lì, ma contemporaneamente anche, non so, aumentare l'efficienza energetica, aumentare l'uso delle energie no carbon oppure a basso contenuto di carbone, di carbonio, aumentare i pozzi di carbonio, quindi ridurre la deforestazione. Certamente in tutto questo insieme di cose ci stanno anche alcuni nostri stili di vita, perché non è inutile, di sicuro non è inutile il contributo che ciascuno di noi può dare, perché comunque qualche cosa che, voglio dire, si contagia poi, no? Che ci si contagia a vicenda. Cioè, è chiaro che non basta certamente la mia attenzione quotidiana a ridurre gli sprechi, a muovermi in maniera sostenibile, a riciclare, a spegnere le luci, a non consumare l'acqua. È chiaro che accanto a questa ci vanno le cose, le politiche internazionali e poi le politiche nazionali. A questo ci pensano i trattati e le nazioni si prendono le loro responsabilità. Però anche io posso prendere questa coscienza, no? Perché sono importanti i movimenti dei giovani che si sono verificati nell'ultimo anno. Non perché fanno diminuire le parti per milione di CO2 in atmosfera, ma perché hanno veramente, veramente risvegliato, secondo me, una coscienza su questi temi che io personalmente non avevo mai visto. Vedi per la prima volta questo tema essere discusso e parlato dappertutto, tanto sui mezzi di comunicazione. Prima non accadeva. Quindi questa però, è la mitigazione. Scusa ti interrompa, okay? Ma possiamo dire, secondo me, oltre ovviamente alla mitigazione, in questo caso dovremmo iniziare seriamente a pensare all'adattamento. Ecco, quella è l'altra strada. Bada però che non è che vuol dire rassegniamoci al fatto che tanto quelle emissioni non le ridurremo. No, la mitigazione va perseguita. Siccome poi c'è però quello che dicevo prima, cioè alcuni cambiamenti sono già in atto, altri per la lentezza, per l'inerzia, se vuoi, del sistema climatico si verificheranno, bisogna che io impari a convivere con effetti già in corso o attesi, ok? Che possono essere anche di dimensione locale e regionale. Quindi devo imparare ad utilizzare le risorse idriche che scarseggeranno in certi posti in maniera più efficiente. Devo magari costruire o innalzare delle barriere anche naturali contro le inondazioni, devo adeguare le norme edilizie per far fronte a condizioni climatiche diciamo diverse magari, come da noi più siccitose, più calde, o con fenomeni meteorologici più estremi. Analogamente, sviluppare colture resistenti, per esempio, alle siccità, oppure ai fenomeni violenti, elaborare piani territoriali o corridoi per favorire quelle migrazioni delle specie a cui tu anche accennavi prima. Mitigazione e adattamento sono due strade che devono procedere insieme. Naturalmente il cambiamento della nostra testa è fondamentale anche, per questo la divulgazione è importante, ad esempio, perché se non viene da noi, comunque, secondo me, non andiamo da nessuna parte, anche perché se no non riusciamo neanche a capire l'importanza di fare queste cose o del pretendere che, per esempio, certi impegni presi dal punto di vista delle nazioni vengano rispettati. Elisa, sono contento che hai ripercorso grosso modo le soluzioni che propone alla fine il sommario per i decisori, per i decisori politici. Sì. Tuttavia, all'inizio diciamo anche delle soluzioni proposte dal rapporto che citavi, è scritto che gli impegni presi, per esempio, a Parigi non basterebbero, no? Cioè, sono stati già superati, la realtà è più reale delle previsioni della realtà. E gli scenari, non gli scenari risolutivi, ma gli scenari apocalittici che propone, anche sono apocalittici, non in senso degenere dell'apocalisse, ma in senso di, se la biomassa mondiale si riduce del 60%, stai veramente, come dicono quelli, dal mio punto di vista, in parte hanno dei caratteri, insomma, ancora poco conflittuali, quelli di Extinction Rebellion, cioè sei veramente in un contesto che è oltre la buona volontà, che per carità ci va, e la presa di coscienza che ci va, nel senso, mi spiego, stando in una radio, diciamo, di un po' d'urto, secondo me dobbiamo anche con te cercare di passare a un livello successivo, nel senso, i cambiamenti devono avvenire, in questo senso li dobbiamo fare avvenire. Se quello che sta scritto sul rapporto per i decisori politici per il contenimento del riscaldamento a 1,5 gradi è corretto, si parla di una transizione energetica pazzesca, dicendo tra l'altro che non è mai avvenuta nella storia. In 11 anni dovremmo ridurre del 50% perlomeno, forse anche di più, perché rispetto alle gigatonnellate del 2010 di emissione, dovremmo ridurre le emissioni in modo drastico, addirittura comportando un'elettrificazione di tutta l'industria. Ma sono scenari molto complessi da raggiungere. Secondo il mio modesto parere, qui l'unica cosa che può fare una comunità attiva di attivisti così è cercare di spingere, ma con forza, non soltanto con le manifestazioni. Mi dispiace, ma penso che se il rischio è quello, l'attivismo deve essere molto forte, nel senso, benissimo che consumiamo meno carne, benissimo che facciamo correttamente la raccolta differenziata, ma per fare l'esempio di Roma, ma questo vale per molte città europee, ma soprattutto per Roma, portare i rifiuti in Portogallo come fa Roma non è corretto dal punto di vista del non avere un impianto di smaltimento finale, per quanto la differenziata in ambito urbano grosso come le città capitali europee è una chimera, oltre il 50-60, nessuno la raggiunge, no, il 50% ancora, volendo dire che siamo bravissimi, però comunque ci sarà sempre una discarica. Noi invece Roma in questo momento porta i rifiuti in Portogallo, in Germania, per dirti, nel senso, penso che gli scenari dell'IPCC facciano fede su una razionalità che purtroppo l'uomo non ha finora mai dimostrato, una presa di coscienza che purtroppo l'uomo finora non ha mai dimostrato, e utilizzino come dogma l'incremento di apporto energetico. Cioè, non è in nessun punto in discussione la possibilità di invertire il modello di consumo mondiale, almeno mi sembra. Cioè, sì, la cooperazione c'è sfumata, però l'idea, accanto a una rottura, clamorosa, cioè la possibilità di stare, definita molto nettamente, la possibilità di stare sull'orlo di una, le cose che ho detto nell'introduzione, quelle sull'acidificazione degli oceani, dimostrerebbero questo, di stare sull'orlo di una crisi biologica analoga a quelle che ci sono state nella storia geologica, no? Di cui abbiamo traccia. L'idea di stare crisi che distruggerebbe l'intero potenzialmente l'intero sistema economico, sociale, umano, no? Se ci fosse veramente una crisi biologica di quel tipo, non è che l'adattamento nelle crisi biologiche così estreme non funziona, perché c'ha tempi troppo lunghi, l'adattamento biologico, dico. E quindi, secondo me, mi sembra che la comunità, pure scientifica, che lo dice, dovrebbe essere, personalmente penso, dovrebbe essere meno tiepida, tanto per dire qualcosa, nel senso, perché non c'è una critica al modello di sviluppo per niente? No, qualcuno lo fa la critica, chiaro, no, dico a livello intergovernativo globale, dell'IPCC cercano di mettere insieme i dati scientifici, che parlano abbastanza chiaro, fanno un quadro della situazione, cercano di fare delle proiezioni future che hanno le loro incertezze ma hanno anche delle solidità, e propongono delle soluzioni. Poi è chiaro che in altri contesti, non so come dire, ci si può muovere in tanti modi, però l'IPCC fa un grande lavoro, di grande rilevanza per la politica. Ma non lo volevo criticare, assolutamente. Dicevo però, che cosa, cioè, io esco da qui, dalla radio oggi, no? Ho preso coscienza preparando questa trasmissione molto più con forza del problema. Mm-hmm. Cioè, non sono terrorizzato, perché non è il mio atteggiamento normale, io faccio scienza così. Cosa faccio, a parte la raccolta differenziata e assumere un comportamento post-hippie, insomma, perché io sono molto critico sulle nostre, cioè, tutto sommato io conosco i risultati dell'IPCC, sono un attivista politico e sociale. Che faccio? Che politiche metto in atto? A parte andare alla manifestazione, fare la differenziata e dire mettete dei fiori nei vostri cannoni, secondo te che faccio? No, certamente bisognerebbe fare qualcosa per, ripeto, per esempio obbligare, in qualche modo far sì che gli impegni presi nei contesti internazionali vengano rispettati, perché se quegli impegni vengono rispettati ci sono delle buone possibilità di farsela a rispettare i target. Ecco, è chiaro che se invece quegli impegni non vengono presi, perché è vero che gli impegni non bastano, quelli presi nella COP di Parigi, ma questo si sapeva già, per questo che in seguito all'accordo di Parigi sono stati definiti degli intervalli di tempo nei quali fare dei rilanci, o se vuoi stringere ancora di più la cinghia, no? Quindi riducendo ancora di più, un po' alla volta, perché altrimenti non se la sarebbe, sarebbe fatta, non so come dire. Cioè, non è che le cose state fatte, le cose sono state previste abbastanza bene, più rispettarle. Quello bisognerebbe pretendere, che fossero rispettati quegli impegni. Certo. Come farlo? Sì, sono tanti canali, è una cosa che, se vuoi, esula adesso dal mio ruolo qua. No, certo, Elisa. Io ti volevo chiedere anche, visto che l'Italia in questo organismo dell'ONU, in questo gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, ha un ruolo forte, e questo te lo chiedo proprio da uno non esterno proprio. L'Italia, come altri paesi, diciamo, poi è dentro la comunità europea, quindi ha preso, anche lei si è fissata degli obiettivi da rispettare, ecco. Quindi in linea con quelli che sono le riduzioni, diciamo, di globali, di emissioni antropiche,